Ora, vorrei tornare al discorso delle ideologie di fondo, dei presupposti, dei miti che fanno sì che una civiltà fiorisca in una direzione e un'altra invece prenda un'altra direzione. Prendo solo le armi da fuoco. Ecco, le armi da fuoco furono conosciute dai cinesi e dai giapponesi, tanto che la polvere da sparo fu inventata dai cinesi. Ma comunque le armi da fuoco furono conosciute e si resero conto i giapponesi che chiaramente i cannoni, le armi, davano un vantaggio enorme in battaglia. All'inizio le adottarono e le perfezionarono anche, ma poi le abbandonarono perché non corrispondeva all'ideologia della loro classe militare, assolutamente. I samurai preferivano la spada. Nella loro visione non era importante il successo e l'obiettivo, ma la coerenza, l'integrità della. Quindi il guerriero in giapponese è un guerriero molto diverso dal guerriero occidentale, che invece guarda il successo. Se vince, ha ragione lui, se perde. No, per il guerriero giapponese anche perdere può essere estremamente onorevole. Ecco, pensa solo cosa hanno fatto i soldati giapponesi dopo la seconda guerra mondiale, quando sono rimasti nelle isolette a difendere un territorio che dopo decenni. Ecco. No, volevo aggiungere qualcosa di dettagli su questo discorso qui. Cioè, a proposito delle armi, no? Non è che non erano state inventate le armi, c'erano giavellotti, archi, l'arco, la freccia, c'erano. Ebbene, c'era un periodo in cui i greci si erano accordati di non usarle in battaglia perché lo consideravano sconveniente. E proprio come poi fecero i cinesi e i giapponesi, che nonostante che disponessero di queste armi, non le usarono, non le misero da parte. L'aristocrazia in generale era sempre stata contraria all'uso di armi a distanza. Ecco. Sempre rispetto a questo, un'altra cosa, anche la Chiesa a un certo punto, quando fu inventata la balestra, ne vietò l'uso ai cristiani. Siccome però non corrispondeva allo spirito del tempo, che era quello della conquista, questo divieto non poteva avere successo, perché i divieti dall'alto, le leggi dall'alto funzionano se il tessuto della società è pronto a riceverli, cioè se è coerente col tessuto morale della società. Se è in contrasto con questo, le leggi non funzionano. Funzionano localmente qualche volta, ma poi dopo non hanno effetto. Allora, cosa sto dicendo? Che in Cina, per esempio, o in Giappone, nonostante che in Cina soprattutto, nei primi 13 secoli la cristianità avesse uno sviluppo delle idee, delle tecniche molto superiori all'Europa, erano il primo mondo rispetto all'Europa che era il quarto mondo, perché l'Europa veniva dopo come, sotto questo aspetto rispetto non solo alla Cina, ma rispetto al mondo arabo, rispetto a Bisanzio, rispetto ai Macedoni. Ecco, bene, che cosa accade? Che in Cina coloro che facevano delle invenzioni erano degli artigiani che erano dei singoli che inventavano qualcosa, ma poi non lo mettevano sul mercato, non lo sfruttavano economicamente. L'idea di sfruttare economicamente qualcosa, cioè di creare un'impresa, una cultura di impresa, cioè qualcosa che al di là di quello che serve ai tuoi bisogni personali, era di fuori dalla mentalità cinese. La mentalità cinese era una mentalità che diffidava dell'astrazione, cioè dell'essere distante dalla vita di tutti i giorni. Allora, fare un'impresa vuol dire guardare lontano nello spazio e nel tempo. In Occidente, invece, l'impresa corrisponde benissimo al bisogno di dominio e al pensiero astratto che si era sviluppato da Socrate in poi. Pensiero astratto, per esempio, pensa solo cosa vuol dire il sapere per Socrate. Il sapere è saper manipolare i concetti, ma i concetti prescindono dalla persona che li ha prodotti, diventano qualcosa che diventa esterno alla persona stessa e quindi può essere trasmesso, manipolato, trasformato, cioè diventa astratto. I cinesi sono assolutamente diffidenti rispetto ai concetti astratti. I maestri orientali sono maestri perché hanno uno stile di vita personale, non perché esprimono una dottrina astratta che può essere trasmessa a distanza. Pensa solo nel campo della geometria. In Cina non si è sviluppata la geometria come si è sviluppata in Grecia, con Euclide, perché i cinesi diffidavano, non erano disinteressati alle idee astratte, erano interessati a ciò che produceva il risultato concreto e quindi le singole azioni dirette a uno scopo attuale, immediato, nel presente, erano qualcosa di valutato positivamente. Tutto quello che riguardava l'astrazione era visto con diffidenza. Ecco, un altro esempio di diffidenza o di disinteresse nei confronti dell'astrazione. In Occidente il diritto è diventato un diritto astratto, le norme sono generali astratte, no? Prescindono dal caso concreto. Quindi sì, la norma giuridica è tale in quanto prescinde dal caso concreto. Chi ruba è punito con, mica dice Giorgio è punito con, quella è una sentenza, la norma è generale astratta. In Cina non hanno sviluppato il diritto in questo senso, perché si sono sempre affidati alla giustizia del caso per caso, diffidando di che cosa? Di ciò che è astratto. Ecco, questo è un altro esempio, quindi ti ho dato tre esempi, l'impresa, la geometria e il diritto, in cui mancano proprio, mancando il background che considera l'astrazione qualcosa di positivo, queste discipline si acquistano uno sviluppo totalmente diverso. E quindi noi in Occidente, che siamo convinti invece che l'astrazione è il centro del progresso, possiamo, come è sempre stato fatto, considerare primitivi, infantili, popoli che non utilizzano l'astrazione. Ma i popoli che non utilizzano l'astrazione lo fanno per una ragione molto specifica di diffidenza nei confronti di qualcosa che si può ritorcere contro, cioè, e qui va il discorso più generale, dei mezzi e dei fini. Io uso l'astrazione per ottenere determinati fini che sono condivisibili. Ma l'astrazione a un certo punto, come del resto la tecnica, può prendere sopravvento e diventare fine essa stessa. L'inversione di mezzi fini è qualcosa di c'è stato è ben nota, è stato per esempio, credo, importante ricordare la visione di Hegel su questo, no? Che a un certo punto, che poi è stata completata da Marx, fino a un certo punto il denaro è un mezzo, ma quando comincia a circolare troppo diventa un fine, perché la tecnica prima è un mezzo, ma se diventa tanta, diventa un fine. Perché diventa un fine? Perché senza denaro e senza tecnica non posso raggiungere nessun altro scopo, quindi diventa lo scopo di tutti gli scopi. Ecco. A questo punto l'astrazione, che dovrebbe servire per esempio a migliorare la nostra comunicazione, il linguaggio, se si diventa sempre più astratto, e questo lo vediamo per esempio in certi filosofi, ma lo vediamo negli intellettuali, questo tipo di astrazione che dovrebbe rendere più facile, più potente la comunicazione, in realtà diventa un mezzo per renderla impossibile. La Torre di Babele diventa, non ci capiamo più, perché l'astrazione, ogni forma di astratta, prescinde da cose che si vedono, si toccano e si sentono, e cosa producono? Producono la distanza della comunicazione astratta rispetto a quello che è comprensibile dalla persona comune. La persona comune quindi viene tagliata fuori. Quindi quello che in origine può servire, come per essere il pensiero filosofico dell'epoca dei greci, doveva servire a tutti, mica ad alcuni intellettuali. Bene, nel momento in cui l'astrazione diventa troppa, serve solo alcuni. E come al solito, quindi, diventa al servizio del potere e dominio. Ecco perché è così importante capire che qualunque mezzo noi usiamo, se non viene attentamente protetto dall'invasione del potere e dominio, si trasforma in qualcosa che è demoniaco. Ecco perché potere e dominio, l'abbiamo detto infinite volte, cosa fa? Divide le persone, ed emette una contro l'altra e fa sì che alcune, poche, si mettono in alto, gli altri in basso, e per potersi mantenere poi utilizza tutti i mezzi, tra cui la propaganda, cioè la deformazione, la corruzione del linguaggio, la corruzione del discorso e l'impossibilità di comprendere la realtà. Ecco, questo è il punto fondamentale. Cioè alla fine, perché il potere e dominio possa manifestarsi nel mondo, deve aver creato un'ideologia, un sistema di idee talmente contorto e complesso che di singole persone non ci sarà capienza più. È quello che dicevo prima. Quindi noi viviamo oggi in un mondo di cui capiamo dei brandelli in superficie, ma i movimenti profondi non li capiamo. E quindi questo, per questo che credo che si può avere una gratitudine nei confronti di persone come Eric Fromm, Luigi Zoia, Galimberti, i quali si sforzano in tutti i modi di farci vedere quali sono i moventi profondi del nostro agire nel mondo, e ci fanno quindi tornare a quello che è un rapporto vero con le cose e con le persone, quindi ritornare alle relazioni. Perché questo è il nostro compito di esseri umani, non quello di produrre oggetti sempre più sofisticati. Quello può fare anche un robot, ma ci disumanizza.